Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Berlusconi afferma che parlare di mafia nei libri e in TV fa pubblicità alla mafia e discredita l'Italia. Vorrei ricordare che la serie TV I Soprano, che ha sollevato le proteste degli italo-americani per la grossolana e volgare rappresentazione degli italiani come mafiosi, è stata di recente trasmessa sul canale Iris della TV digitale terrestre, che, per chi non lo sapesse, è un canale televisivo Mediaset. Ogni commento è superfluo. Domenico. Berlusconi non ha detto che Gomorra non esiste, ma che ha danneggiato, come tanti altri film e telefilm di successo, tipo La Piovra, l'immagine dell'Italia nel mondo. Non mi sembra una sciocchezza. 18 anni fa frequentavo il liceo scientifico. Eravamo in gita scolastica a Parigi e in un museo incontrammo una scolaresca di bambini francesi che, mentre passavamo davanti a loro, incominciarono ad apostrofarci ad uno dicendo «mafia» e ripetendolo in continuazione. Le loro maestre li redarguivano. Ma non so se lo facessero per paura di noi o perché capivano che ci stavano offendendo. Ci siamo allontanati, rattristati e un po' arrabbiati. Solo un po', perché in fondo quei francesi erano soltanto dei bambini. Ma chi aveva dato loro questa bella immagine degli italiani? Allora mi viene in mente lo sceneggiato La Piovra, che aveva avuto un grande successo in moltissimi paesi. Alfonso. Non si può negare che, almeno in Campania e in Sicilia, vi sia una fiorentissima industria dell'antimafia, sulla quale si sono costruite carriere e profitti, sia nella politica, sia nella magistratura, nella polizia e certamente anche nella letteratura e nel giornalismo. E questa industria dell'antimafia ha necessità che il fenomeno mafioso venga continuamente accentuato nella percezione da parte della pubblica opinione del fenomeno mafioso. E questo finisce con avere anche un effetto suggestivo, nel modo di pensare e nei comportamenti dei più giovani. Nino. La vicenda di Adro, ricco paese bresciano di Franciacorta, si è rivelata feconda di riflessioni e ha fatto emergere paradossi e contraddizioni. C'è chi vorrebbe santo subito il non più anonimo donatore, che ha versato 10.000 euro per ripianare il bilancio del comune al posto di chi non ha pagato la mensa dei propri figli, e chi rimprovera questo signore d'aver coperto col suo gesto coloro che non pagano, non perché poveri. Il problema non sta nel decidere in astratto se il donatore sia un eroe della solidarietà, o un ingenuo complice di furbizie, o un propagandista politico nemico del sindaco leghista, ma nel conoscere la condizione effettiva di coloro che non pagano il dovuto. Tra le ragioni che vengono addotte per sostenere il federalismo fiscale, la principale è che i politici del territorio sono a conoscenza delle situazioni e, a differenza dello Stato, sono in grado di far pagare le tasse ai cittadini, secondo le rispettive capacità contributive. I due personaggi di Adro, che per caso hanno lo stesso cognome, anche se non sono parenti, e cioè il sindaco e l'imprenditore donatore, hanno evidentemente diversa conoscenza delle capacità contributive dei loro concittadini, perché il primo ritiene che si tratti di furbi, il secondo di indigenti. La questione non è sociologicamente insolubile. Con una semplice lettera di sollecito, il sindaco ha ottenuto che la metà dei 40 morosi pagasse il servizio mensa. Ne restano 20, tra cui la metà sono immigrati regolari. È per questa ventina di non contribuenti al pagamento del servizio mensa che l'imprenditore ha firmato il bonifico. Se ad Adro ci sono dei cittadini furbi, tocca al sindaco svegliarli e sanzionarli, perché i bilanci pubblici vanno gestiti correttamente. Se ci sono persone prigioniere di ostacoli di fatto, tocca al sindaco rimuoverli. Ha fatto bene l'imprenditore ad intervenire come cittadino, in rappresentanza delle ragioni morali e giuridiche che hanno ispirato la Costituzione della nostra civile Repubblica. Luciano. Poche righe per intervenire sulla questione Adro. Lascio da parte i commenti che meriterebbero le suggestive espressioni dei soliti sciacalli circa il fatto che i bambini verrebbero messi a pane e acqua o peggio fatti morire di fame, e condivido in toto il principio per cui tutti debbano pagare salvo godano dei presupposti per esserne esentati. Ma ciò detto, è così difficile capire che l'ultimo provvedimento da prendere è quello di farla pagare ai bambini? Quando il comune vuole riscuotere per la TARSU, per l'ICI o per multe magari erogate fraudolentemente, mi pare che lo faccia con decisione. Ci sono sicuramente i mezzi per costringere i genitori a pagare e magari punirli per la loro morosità. Il rifiuto della prestazione mensa ai bimbi è solo una delle mille possibili risposte che si possono dare all'illecito comportamento dei genitori, ma dovrebbe essere l'ultima ad essere adottata. È così difficile da capire. Il coro di voci di condanna per il benefattore, poi, è un altro segno dei tempi. Le persone sono ormai così lontane dall'idea che si possa voler fare del bene disinteressatamente che chi lo fa diventa un marziano, incompreso e, se possibile, vilipeso. Francesco, Genova. Vorrei che gli esponenti del centrodestra perdessero la brutta abitudine di pronunciare, quando affrontano una discussione, frasi del tipo: beh, abbiamo preso il 62% alle ultime elezioni, vuoi che siano tutti scemi quelli che ci hanno votato? Tutto per cercare di accaparrarsi il diritto ad avere ragione in virtù di questo dato. Un esempio è il sindaco di Adro che, sostenendo questa tesi, cercava di avere ragione. Da lui ho sentito dire: sono i genitori che devono essere responsabili dei propri figli, non il sindaco. Certo, se un bimbo rompe un vetro con una pallonata, i genitori risponderanno di quello che il bimbo ha fatto. Ma qui è avvenuto proprio il contrario. Il genitore non ha potuto, o in alcuni casi non ha voluto, pagare la mensa. E i loro bimbi hanno pagato il conto. Non mi sembra la stessa cosa. Vorrei ricordargli che Galileo, quando sosteneva le sue tesi, era in netta minoranza. E poi tutti sanno com'è andata a finire. Ci sono modi molto migliori per ottenere lo stesso risultato. Magari meno spettacolari, ma sicuramente più giusti. Sergio da Prato. Scrivo a proposito di quell'imprenditore di Adro che ha versato 10.000 euro per pagare la retta della mensa scolastica ai bambini delle famiglie inadempienti. Se il gesto voleva essere carità cristiana, quella vera, senza fronzoli, quella che bada alla sostanza, che non ha tornaconti personali e che è diretta a favore di qualcuno e non contro qualcun altro, questo gesto doveva essere fatto in silenzio, senza nomi e cognomi e soprattutto senza lettere o comunicati stampa. Quando la finiremo di pensare che gesti di questo tipo facciano il bene di queste persone? Non mi riferisco ai bambini, ma ai loro genitori, che continueranno a pensare che vivono in un paese dove tanto, prima o poi, qualcun altro paga i nostri conti, che sia la mensa scolastica oppure il fisco. Leonardo. Sono contrario a considerare il premierato e tutte le connesse riforme come prioritarie per l'Italia. Da 15 anni abbiamo governi più o meno stabili e quindi non si vede l'urgenza di cambiare le regole del gioco. Semmai qualche piccolo ritocco. Paesi come il nostro hanno sistemi di governo e sistemi elettorali che durano da decine di anni e non ci pensano neppure a toccarle. Semmai pensano a come far funzionare bene la macchina. Pertanto penso che tutto il cancan che è stato fatto in questi mesi sia solo fumo per nascondere e dilazionare le vere riforme, quelle indispensabili. La più urgente delle riforme da fare è la riduzione della spesa pubblica mediante una bella cura dimagrante, a partire dalla testa dell'apparato burocratico. Basterebbero semplici operazioni come porre un limite al numero dei deputati, degli assessori, delle province, licenziare o trasferire coloro che in certi enti risultano in sovrannumero, mandarli a lavorare dove invece manca il personale. Inoltre vorrei che fosse messo un tetto massimo agli stipendi dei vari enti, così molti forse ritornerebbero a fare il loro mestiere. È ingiusto che un consigliere regionale toscano prenda minimo 13.000 euro al mese più gli extra e un operaio ne prenda solo 1.000 o un pensionato solo 500. Ci vorrebbe una pulizia generale, una ridistribuzione delle risorse, una maggiore giustizia sociale e una protezione delle nostre attività. Bisogna ridare respiro alla nostra economia se non vogliamo sprofondare nei debiti. Le riforme costituzionali lasciamole per il futuro, quando ci sarà maggiore tranquillità sociale. E poi, sinceramente, non credo che questa classe politica abbia l'autorevolezza e la lucidità necessarie per toccare la base della nostra democrazia, per cambiare la Costituzione. Prima di tutto dovrebbero cambiare la loro testa e dimostrare maggior sensibilità e assoluta trasparenza, cosa che adesso non vedo. Massimo. Caro Fabi, scrivo a proposito della crisi del settore auto. Io credo che gli acquisti dovrebbero essere sempre commisurati all'effettivo prezzo offerto dal cliente, a seconda del materiale, del tipo di lavorazione e del tempo impiegato, evitando sperequazioni eccessive tra il reale valore del prezzo e il prezzo di vendita al pubblico. Le case automobilistiche, che stanno cercando di contrastare il calo delle vendite sui mercati europei, devono anche fare fronte al continuo aumento del costo dell'acciaio, seguito all'incremento dei prezzi del suo componente base, il minerale di ferro. I produttori di auto dell'Unione Europea chiedono l'intervento dell'antitrust, dato che sono stati annunciati aumenti pari ad oltre il 90%, come ha dichiarato la CEA, l'Associazione Europea Costruttori Auto. Io penso che questa crisi, oltre ai danni che sono sotto gli occhi di tutti, abbia messo in moto un volano che a breve porterà a un default del settore terziario, perché la fame di commesse ha innescato una lotta, una gara al ribasso, usata spregiudicatamente dai clienti come arma per ottenere sconti. La frase che si sente dire più spesso è: «Ho una fila di artigiani che mi fanno lo sconto del 15% su tutto il listino. Tu riesci?» A questo si aggiungono tempi di consegna sempre più stretti e un calo drastico dei numeri di produzione. Rudy. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.